grande giornalista. Biagi è stato la misura della mia carriera giornalistica e della mia vita. L'ho conosciuto quando eravamo giovanissimi, ci siamo sempre accompagnati e fronteggiati per tutti questi anni. Qual è stata la sua particolarità di Biagi? La particolarità di Biagi, che a me è stata spesso rimproverata, è che lui sapeva essere in assonanza con la gente comune, con i lettori comuni, mentre io invece sono sempre stato un po' snob e un po' lontano. Ma è letto da tante persone, per cui non credo. Senta, Biagi usava parole semplici con concetti complessi, si può dire? Sì, questo sì. Sapeva semplificare le cose e renderle persuasive, mi pare. Aveva un'arte di essere popolare, insomma. Andava in televisione, diceva delle cose che sembravano normali e piane e qualsiasi, ed erano, e che faceva una buona trasmissione. Meglio Biagi in televisione o sulla carta stampata? No, il massimo di Biagi è stato in televisione quando dirigeva il telegiornale, perché lui ha diretto il telegiornale e per il breve periodo che gli hanno lasciato dirigere ha fatto il miglior telegiornale che sia mai stato fatto in Italia. Cioè era un telegiornale in cui la politica, come è fatta oggi, era completamente dimenticata, dove si parlava di fatti della vita e di cronaca. Un giornalista anche scomodo, pur occupando posizioni di grande responsabilità. Scomodo, sì, tanto è vero che Berlusconi l'ho fatto cacciare dalla televisione. Era un personaggio a suo modo furbo, a suo modo molto bolognese, capace di navigare, di vivere, però era anche uno che difendeva la sua indipendenza. I vostri rapporti come erano? Di amicizia, di rivalità professionale? I nostri rapporti erano alterni, perché Biagi era un tipo molto, si offendeva facilmente. E io scrissi parecchie volte prendendolo in giro e lui rispose anche in termini molto duri, chiamandomi per esempio storico dei miei stivali. Quindi così era anche un polemista, insomma, uno che non si tirava indietro. No, vabbè, eravamo veramente dei compagni di strada, ma dei compagni liberi. Ai giovani giornalisti cos'è che manca rispetto a giornalisti come Biagi? Che Biagi era un capocomico naturale, un attore naturale come De Filippo. No, non so se ne nascono ancora nel modo di selezionare i giornalisti oggi.